In it for you. In it, your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sandona 102.100, Radio Sherwood 97.8, nuova settimana in compagnia di Music for you. Buonasera Alvise Favotto. Buonasera Daniele Terzariola, è sempre bello vedere questa tua chioma sempre più corposa e enigmatica. Imbarazzante, se devo più dire, che sì. Altro. Anche tu non ti dai parecchio da fare. Grossi punti di domanda nelle nostre teste, ma soprattutto sul cuoio capelluto. Come dicevano nel 1994, dopo una discesa in campo da parte di un losco figuro della politica, Alberto Tomba, sì, io ho dei cavalli da piazzare in albergo e sono dei cavalli morti, fammi trovare due cavalli e mezzo. Poi ci fu il processo, non erano cavalli ma ben altro. Noi di cavalli morti ne abbiamo, sono due. Il mezzo ce lo mettiamo noi, anche perché se resta metà cavallo, che fa? Lascia. Lascia, in carta. Dead Horse, ospiti per Radio Sherwood e Radio Sandona. Buonasera signori. Buonasera. Ciao. Che bella gentaglia. Cioè, Dead Horse, tra l'altro, questa cosa... Horse, con la Z. No, Dead Horse, proprio da orzo. Esatto. No, questa cosa viene dai Sex Pistols o sono io scemo? Dimmi che sono io scemo. Hai tu troppe sovrastrutture. Sega perché... No, allora la cosa è nata semplicemente dall'unione letterale dei nostri due cognomi. Cioè non è niente di aulico, è semplicemente il suo cognome, The Dean, mescolato al mio Sforzin, con dei tagli, e venne fuori questo... Troppi sforzi per te, Al. No, ma infatti cioè, io ci arriverò domani quando mi manderà uno schemino per mail. L'avevi anche pensata troppo, troppe sovrastrutture marxiane nella tua testa. Allora, dove mi nascono, perché, ma soprattutto che genere ci proponete, chi siete? Siete una band? Cosa fate nella vita? Allora, intanto partiamo da dove nasce. È nata così per caso, assolutamente per caso, perché c'era stato chiesto al... caffè letterario qui di Sandonà. Bravo, specifica, che la gente ti ascolta al Veneto e si fa dei grossi domandoni. Sì, appunto ti avevano chiesto di fare una, di suonare un po', mettere su due dischi così, proprio in sciallanza. Mi avevano chiesto a me e io ho detto, ben, cazzo faccio? Cosa mettiamo? Bingo. Oh, molto bene. Molto bene e dico, boh, cosa faccio? Boh, allora domando al mio amico qui, Sforz, siccome siamo entrambi costudiosi a Udine, e ho detto, boh, cosa facciamo? Boh, buttiamo su un po' di hip hop, facciamo cose un po' strane rispetto al solito musica che si butta dentro. Boh, proviamo, abbiamo provato e così è iniziata questa cosa, ma che doveva essere una cosa molto... Ma è partito un grazie a Dio da questo lato dello studio. Ma cioè, quindi il genere è stato completamente scelto a casaccio? Cioè, tra una cosa... No, non è stata una scelta a caso, perché è un genere che ci piace, okay. Non è assolutamente... è un genere che la gente apprezza, secondo me, perché c'è bisogno di musica del genere, c'è bisogno di diversa musica rispetto alla solita musica commerciale che ci viene sempre proposta. C'è bisogno di rock alternativo, c'è bisogno di tante cose, c'è bisogno secondo me anche di questa musica diversa, no? Quindi è stata una scelta per passione, per una scelta di campo, una scelta di presa di posizione diversa. La discesa in campo. La discesa in campo per tornare ai cavalli morti. Esatto. E così è iniziata questa cosa così, ma doveva essere proprio un passant. E invece poi in realtà dopo questa apparizione al caffè letterario, che a mio avviso poteva andare meglio, non richiesta a nessuno tra l'altro, comunque a parte esatto. Che dai gestori e non dopo quell'apparizione abbiamo avuto modo di suonare al Bell Summer Festival al Parco dell'Architettura. Bella location. Sì. Misconosciuta dopo la finale dei mondiali lì. È finita tra l'altro tardissimo la finale dei mondiali, che abbiamo dovuto suonare quello che abbiamo suonato, e da lì inspiegabilmente a Rock and Dock la serata di Club Dogo, un salto a casaccio, siamo stati contattati dalla Discovery che gestiva il second stage, e niente, siamo andati a suonare lì e tutta lì, una data a Sappada, grazie alle conoscenze. Sappada. Parliamone. Una sera a Udine, fuori a Zonzo per i bar, ho avuto modo di conoscere un ragazzo di Sappada che studia web design. E niente, lui conosce tuttora i gestori dello ski bar. E quindi ci ha proposto una data per Halloween a Sappada. E non vuoi non accettarla. L'unico che rifiuta si ammette. Esatto, quando dici Sappada, a me vengono in mente sti salami. Sti porchette che escono. Dovete sta grappa che è proprio andata a fiumi. E invece loro ci vanno, io e te avremmo detto no, ci stiamo preparando mentalmente al giorno dei morti. Esatto, per cui loro vanno, se fanno le loro cose, mettono su dischi, toccano piastre, che non avremo neanche minima idea di cosa sono le piastre. Poi tra l'altro noi abbiamo delle mani molto più unte, sì. Bisogna dire. Si scivola. Esatto. Cominciamo con un po' di musica, giusto per dare un'idea di quali sono i vostri set. Chi mi avete portato? La scaletta mi dice Gangstar Full Clip. Volete parlarcene? Se dite che siete completamente ignoranti in materia e vi piace solo la musica, va bene lo stesso. Non ci fate queste gran figure becere. Gangstar è un gruppo hip hop newyorkese formato da Guru e da DJ Premier. Bravo. Adesso non vorrei. Confermo. Ah, ok, grazie. Guru Foglio è l'MC, canta. Vero? Sì. Guru è l'MC. E Premier è il DJ. Ha fatto anche un CD solista bellissimo. Di che fa voto che lo conosci? E cosa? Il CD solista di Guru? Madonna. Tre copie? Anzi, se prendiamo l'originale. Direi di ascoltarlo e finire qua. Questa. Ne ho anche alcune sotto le ascelle io. Full clip di Gangstar su Music for Youth, Radio Shell 97.8, Radio Sonora 102.2. Big L, rest in peace. Rest in peace. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. So that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sell. Now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I can return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes are chasing fake nigga down soon as I spot one. Clip. Do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. Full clip. Do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. I suggest you take a rest. So if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch your L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G. I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus, more than ever, I got my whole shit together. More than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to fry. Know how many niggas that I know that's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip. Do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. Full clip. Do you wanna mess with this? Gangstar. Nice like that. So good. So I suggest you take a rest. Attacking like a slick Apache. Lyrics are trigger happy. Blowing back your wig piece just for the way you're looking at me. Cock back, blow. I hit you up right now. I don't know why so many of y'all wanna be thugs anyhow. Face the consequence of your childish nonsense. I can make your head explode just by my lyrical content. Get you in my scope and metaphorically snipe ya. I never liked ya. I gas that ass and then ignite ya. The flamethrower. Make your peeps afraid to know ya. How many times I told ya? Play your position, small soldier. My heart is colder. Makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son. Nah, I'm not buying it. I'm ready to blast, ready to surpass and harass. I'm ready to flip, yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch your dome already, cause this one might hit. Full clip. Do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. flip. If you wanna mess with this, then can't stop. The best yet. I'm nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest. Gangstar Full Clip, siamo ritornati in studio. Music for Youth, è il tempo delle mele e è anche il tempo del ghetto, perché noi presentiamo Ghetto Superstar di Pras featuring Old Dirty Bastard. Introduction mia è lunghissima, me la ricordo ancora dal 98. Gran canzone, secondo me. Sì, poi grande Old Dirty Bastard, se devo dire. Una persona oggi morto, purtroppo. Ma non è morto. Sì, sì. Fai confusione con quell'altro. O oggi in carcere. Oggi comunque in una delle molto due. Molto probabile. Comunque, una delle prime persone che mi colpisce nell'universo mondiale per avere tutti i denti d'oro. È vero, sì. Bellissimo, anche perché, cioè, comunque è una cosa che risalta. Poi se lo fa anche a Nook. Pensa che problemi in aeroporto, tra l'altro. Ma ti suona tutto, eh. Vuol dirti basta, non so se è un pezzo che potrebbero mettere loro, perché ci stavano spiegando di come si strutturano le cose nell'ambiente, cosa a noi totalmente ignota. Sì, infatti. Quindi, è proprio... Spiegate a questo pubblico ignoranti. Ecco. Cioè a me e lui, non quelli che ci ascoltano. No, cioè, la gente che ci ascolta di solito ne sa molto di più di noi. Cioè, non... Arrivano mail su mail, ignoranti, ignoranti. Esatto. Pacchi di mail. Esatto, siete dei cafoni, grazie. Grazie. Andate. Allora, dicevamo appunto durante la canzone che noi solitamente prendiamo come musica da inserire nei nostri DJ set quella che va dagli anni 90 a oggi per alcuni versi, se no comunque utilizziamo appunto quel periodo appunto che va da inizio 90 a fine anni 90, la cosiddetta Golden Age nella storia dell'hip hop americano. Prima di quest'epoca, quindi negli anni 80, è nato l'hip hop, anche fine 70 è nato l'hip hop grazie a tre mostri sacri a cui ogni rapper di sta terra dovrebbe fare riferimento o ringraziare sempre e comunque. Voglio i nomi, sono Nina Pinta, la Santa Maria più o meno. Sono DJ Kool Herc, questo è il primo a fare questi party nelle strade del Bronx a New York, e quindi dar vita a questa cultura, perché prima di essere musica è una cultura l'hip hop. Dopo diviene la musica, però appunto questa cultura nera all'interno dei quartieri nel Bronx, queste gang rivali che si scontravano non sempre con sfondi felici, anche sociali. E da Kool Herc a Grandmaster Flash, insieme a Africa Bambata e alla Sugar Hill Gang, che sono stati questi primi a dar vita a questo genere. Poi appunto noi solitamente non prendiamo questo target di musica, ma andiamo su cose un po' dopo, insomma, perché sono comunque pezzi di una difficoltà abbastanza elevata da suonare, perché comunque hanno delle basi abbastanza anni 80, quindi anche un po' eccessive a volte. Okay. Andiamo sull'epoca esattamente dopo, appunto nella cosiddetta Golden Age, quindi sia newyorkese che dalla parte di Los Angeles o nella West Coast, dove abbiamo una serie di artisti sterminati, veramente infiniti, tra cui a parte i più famosi Run DMC, Public Enemy, passando anche per Tupac nella West Coast. Vi settate lì, esatto, siamo in quel Pras ci cade, questo l'abbiamo capito. Sì, Pras è un bell'uomo, fra l'altro, se devo dire. Adesso loro ci diranno se rientra all'interno del settore, cioè sull'anno ci siamo, sono tutti sì, d'accordo. Sì. Nell'anno ci siamo, questa è anche colonna sonora di un celebre film sul senatore Woolworth. L'hai visto solo te? No, ma cioè una cosa che ha senso nel mondo. E un video anche bellissimo. E Mia è un tocco di gnocca. Ecco, sì, parliamo dell'amore che tutti proviamo per Mia. Questo giustifica il pezzo da solo. Pras, Old Dirty Bastard and Mia. Questo è Ghetto Superstar. Some got hopes and dreams, we got ways and mean. The supreme dream team, always up with the scheme. From Hellcat to selling raps, name the theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who got me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomatic immunities, no time for a visa. It just begun. I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keeping it retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politic with ghetto senators on the D-Lo. The senator behind closed doors, hitting truth to the sea floor. The rich go north, ignore the tug of war. While the kids are poor, open door and better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the streets. Now every dog got a day, needless to say. When the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, dance around your fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of parade. Kick your balls like Pele, pick them doing ballet. Like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador. Cry yelling ole. Who the hell wanna save me from BK to Calais? Come on, when you thought it was safe in a common place. Showcase your finances, lose a pass on the horse race. Two phase, getting these phase out like Scarface. For your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, it's all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. Ghetto Superstar di Pras, un esule dei Fugees con Lauryn Hill e Wyclef Jean, ora candidato, ora candidato come sindaco di Haiti, o si era già presentato? No, non so neanche quando, sinceramente non sono informato. Quando si tengono le elezioni, esatto. Presumo che non lo sappia neanche lui per i livelli di droghe che assume. Comunque avevo sentito su, avevo letto da qualche parte appunto questa cosa. L'importante è che si droghi e che si candidi sindaco in virtù del farsi di droghe. Ma non può candidarsi direttamente presidente di Haiti? Di Haiti, perché tanto magari non so, dovremmo verificare l'organigramma di come succedono le cose lì a livello istituzionale. Esatto, magari perché può tentare una scalata allo Stato magari, e al mondo. Il sindaco è già presidente. Che cazzo ne so? Esatto. Parti da lì e poi è presidente della nuvola atomica. Esatto, da poi un posticino mi arrivi dappertutto. Un battito d'ali nell'Atlantico è scatena un disastro atomico dall'altra parte in Groenlandia. Che cazzo di principio è? Tra l'altro, io non l'ho mai capito. Chiediamoli The Doors, l'avete mai capito? Il battito di ali una farfalla scatena un tornado in Giappone? No, ho visto un film su questa cosa qui, Butterfly Effect. Non ci ho capito niente. Bravo. Vabbè. Molto bene. Siamo tutti una mandria di intellettualoidi. Io mi sono fermato al film Il Popolo Migratore, che segue la transumanza delle oche. Ma forse lì c'è già più... Comunque gente, per cortesia, passiamo alla traccia successiva, perché qui c'è materiale... Qui ci sono i ciccioli. Esatto. E i ciccioli sono presentati da Fresh Prince. Che voi direte, ma chi è? Esatto. Forse il principe di Bel Air vi può dare più soddisfazione? Ebbene sì. E questi bei ragazzi lo mettono su. Perché? Beh, perché? Perché il Fresh Prince of Bel-Air, il principe di... Will, il principe di Bel-Air, che ci ricordiamo tutti, che tutti abbiamo visto tutte le serie fin da... Certo. No, meno male. E, questo Fresh Prince, oltre a essere appunto un figo, il grande che va a... dove è Beverly Hills e fa il disastrato, è anche uno della storia dell'hip hop, no? È uno dei cantanti storici dell'hip hop, all'inizio come Fresh Prince, poi come da solo, come Will Smith. Questo appunto, questo pezzo che è Girls and Nothing But Trouble, di bello ha che campiona DJ Jazzy Jeff, che era il suo DJ, oltre ad essere un DJ, cioè uno dei DJ storici, no, dell'hip hop, campiona un pezzo di un telefilm famosissimo degli anni, penso 60, che chi come me prima di andare a mangiare guardava la 7 quest'estate, se lo poteva vedere. Io no, non mi ricordo. Io non mi ricordo assolutamente mangiare. E mentre guardavo appunto sta sigla mi dicevo, ma io l'ho già sentita da questa da qualche parte questa sigla, e in realtà era questo pezzo Fresh Prince, appunto Principe Bel-Air, DJ Jazzy Jeff. Se qualcuno si ricorda, è il Jeffrey che veniva buttato fuori di casa dal padre, dallo zio di Willy, ogni volta che entrava. Quello quindi, che svolava. Quello che svolava. Che ci provava con Hillary. Hillary non lo voleva. Era una cosa triste, secondo me. E adesso il Will Smith mi si è ridotto a fare i film con Muccino, sì, io sono leggenda e tutto il resto. Quanta qualità sprecata, veramente. È vero. Andiamo a sentirci Girls Ain't Nothing But Trouble di The Fresh Prince. Don't mean to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. Just last week when I was walking down the street, I observed this lovely lady that I wanted to meet. I walked up to her, I said hello. She said, hey, you're kinda cute. I said, yes, I know, but by the way, sweetheart, what's your name? She said, my friends like to call me Exotic Elaine. I said, my name is the Prince. And she said, why? I said, well, I don't know, I'm just a hell of a guy, but about me, yo, let's talk about you and all the wonderful things that you and I can do. I popped some cash in a little bit of time. I showed some cash, then the girl was mine. I took her over town, I wined her and dined her. She asked me, did I like her? I said, well, kinda. All of a sudden, she jumped out of seat, snatched me up by my wrist and took me out in the street. She started grabbing all over me, kissing and hugging, so I shoved her away. I said, you better stop bugging. She got mad, looked me dead in my face, threw her hands in the air and yelled out, I got scared when she started to yell, so I handed her my wallet and ran like hell. I was ducking through alleys, right and left, but when the cops caught up, they almost beat me to death. I was arrested, charged with aggravated assault. But it wasn't my fault. Well, nevertheless, don't mean to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. Friday night, coolin' watching a Mike Tyson fight. I was maxin' and relaxing, sipping on tequila. When this girl walked up, she said, hi, my name's Sheila. I responded by saying hello. She paid for my drink and then said, let's go. 20 minutes later, things were starting to cook. As we pulled up into a house, I said, I'm with you, toots. The music was soft and there was wine in the glasses. She started winking and making little passes at me. She grabbed me close and that's when she got bold. She started peeling up my back, I said, oh, your hands are cold. We went into her bedroom thinking of one thing. Took the phone off the hook to avoid the annoying ring. I caressed her body and then I kissed her cheek. And that's when I observed those satin bed sheets. I felt that it was time for me to make my move. I thought I better hurry up before I busted the groove. I leaned down to kiss her but then out of the blue, a door slammed and a voice said, baby, where are you? My boyfriend busted in, he grinned an evil grin and said, oh, boy, I'ma tear your butt limb from limb. I was scared as hell, where was I supposed to go? I just yelled, Geronimo, jumped out the window. We were in a snowstorm and all I had was my underwear on to keep me warm. And to top the night off, I had to break in my place because my keys were in my pants back on Sheila's bookcase. I was done sneezing and coughing. I hope this doesn't happen too often, but nevertheless, don't mean to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. don't know, man. I don't think they're really with him, man. I think you should give him another example. All right, this scratch is making funky right here. I got a ring on my phone, made 5th last year. It was my girlfriend, Betty. I said, hello, dear. I was just about to call you. I got a couple tickets to the Run DMC concert. I'm ready. It's 6 o'clock now. At 8, will you be ready? Yeah. All right, fine. See you then, Betty. I combed my hair, washed and brushed my teeth. Got funky, fresh dressed, and Molly Cox 14. Got the Betty's at 8. I was ready to jet until Betty's mom said, Betty's not ready yet. I sat there for at least an hour. It was 10 after 9 before she got in the shower. 9:35, she comes downstairs and said, I need a little longer to finish my hair. At 10 o'clock, we had been missed the show. She comes downstairs and says, let's go. Go where? Go to sleep, I'm gone. I was steaming like a demon as I drove home, but it just goes to show. Not trying to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhyme, just remember my rhyme. Take heed to my rhyme to get the hell away. Man, first your parents just don't understand. I know, word, man. Then you had these crazy nightmares. Why me? Why me? What's next? It's not these girls, man. But you know how it is. Fresh Prince, Girls Ain't Nothing But Trouble. Siamo rientrati in Music for Youth. Alvise Favotto, è il turno del tuo pezzo. Esattamente, il mio pezzo di stasera è quelle classiche cose, non lo so, un polpaccio, un rene, un qualcosa che si può dare ad un'asta. Cosa stai dicendo? Favotto, TV on the Radio devi presentare e basta, sì. Non devi fare. Allora, TV on the Radio, un grande combo canadese come le tende, non finiremo mai di dirlo abbastanza. Allora, questi cosa fanno? Fanno sostanzialmente dell'indie e della wave. Sono un po' derivativi, sì, lo sono. Iniziano nel 2000, fanno 4 album. A me ricordano molto i Pulp. I Pulp, però, il cantante dei Pulp va visto assolutamente perché ha dei movimenti di bacino notevolissimi. Tempis. Quando balla, eh? Jarvis Cocker, esattamente. Tra l'altro, che si è lanciato recentemente in un progetto elettronico dove lui fa i vocalizzi. Qualcosa di meraviglioso. Comunque, si finisce mai imparare con te. No, guarda, cioè, non si finisce mai di buttarsi nell'umido con me. Okay, i TV on the Radio, sì, hanno anche collaborato con Lista, David Bowie, Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeah, c'è Kazu Makino dei nostri famosi Blonde Redhead con collaborazione italiana e Katrina Ford di Celebration. Sito contento. Soprattutto per questi Celebration. Non so chi siano. Celebriamoli. TV on the Radio, presentiamo un pezzo estratto da quale album? Presumo il terzo, nel, sì, 2006, Return to Cookie Mountain. È seguito Dear Science del 2008, io me ne sono ascoltato spesso, mi è piaciuto abbastanza. Ed è l'opinione un po' di tutti, di riviste, sì, patinate musicalmente. Sì, fino a quell'album più o meno passano nella più generale ignoranza da parte del pubblico canadese e non. Dopodiché hanno quel successo che un po' anche si meritano. Questa è Wolf Like Us. Thank you. Wolf Like Me dei TV on the radio. Siamo rientrati a Music for Youth, Radio Shell 178, Radio Sandana 102.2. Ospiti con noi in Dead Orts. A me piace pronunciarvi così e penso sia anche giusto. E ci dovete raccontare qualcosa dei vostri aneddoti in giro per il mondo, anche perché di strada un po' ne avete fatta, a quanto pare, anche se non vi vantate. Noi restiamo sempre qua. Noi siamo molto statici. Prego. Allora, il primo fuori porta che abbiamo avuto modo di fare, come dicevamo prima, quando siamo andati a Sappada a suonare appunto allo Ski Bar da dei ragazzi fenomenali che ringraziamo perché ci hanno divertito un mondo quella sera. Siamo partiti da qua in tre, tra l'altro, che ho avuto anche un nostro amico che salutiamo e ringraziamo ancora per quella volta, Max. Ciao, faccia bene. E niente, siamo andati sulla Sappada partendo da qua con una temperatura mite che c'era verso fine ottobre, mite per così dire, comunque quei 10 gradi c'erano, arrivando lì con meno 5 gradi, noi in giubbottino leggero, no? Spavaldi, a fare un freddo, neve, pincionea, come si suol esatto. dire. E niente, lì cominciamo a scaldarci dal freddo bevendo due grappette con sti ragazzi di Sappada. E la serata è stata positiva, tutto sommato, si è servito un mondo a suonare. E abbiamo mangiato lì, siamo rimasti lì a dormire perché fare Sandana a Sappada, poi Sappada a Udine perché andavamo a andare giù a Udine diretti, fare durante in un pomeriggio notte, sembrava un po' impegnativo. Quindi loro ci hanno anche gentilmente prestato una stanza che era sopra appunto il bar. E con questi adesivi e Love Milf su ogni parete. Complimenti. Ognuno si sente realizzato dove è più bravo. Esatto, spettacolare. E niente, è stato un weekend. Tra l'altro il primo weekend che abbiamo fatto per andare a suonare in giro, che poi... Però è stata veramente una figata, perché prendere, andare, suonare, stare lì, conoscere gente nuova, conoscere abbastanza gente nuova, poi divertirsi un mondo, è stato veramente un... A parte il live, la suonata che abbiamo fatto, è stata proprio un'esperienza da... Di vita. Esatto. Ci dicevate che avete fatto trasferta anche in quelle Trieste, e a quanto pare le cose, purtroppo, e dico tanto per cambiare, vanno sempre meglio rispetto alla nostra zona, no? Beh sì, come sempre, Sandonoia, Eh sì. come siamo tutti abituati a chiamarla. Sì, Trieste è tutto un altro mondo. Per carità, noi che studiamo a Udine abbiamo un po' preso l'influsso antitriestino. L'imprinting. L'imprinting, no, vabbè. Ne però, insomma, febbre, capito? Però siamo partiti la sera, ci avevamo chiesto, siamo andati, abbiamo contattato questo, grazie a una nostra amica qui di San Donà, il Round Midnight, che è un locale di Trieste dove fanno, tra virgolette, jazz, ma fanno anche molto hip hop. Proprio chi lo gestisce è uno dei Carnicates, che è il gruppo hip hop del Friuli, Carnicates proprio da Carnia. E pensavo proprio da macelleria io invece, non so. Beh, oddio, con macelleria, carne. Esatto. Siamo andati, no? E quindi abbiamo suonato lì a Trieste, è stata una figata perché c'è stato il pienone, cosa che non avevamo mai visto, nel senso suonare in un locale, vedere piena la gente che saltava, che proprio si vedeva che piaceva quello che stavamo mettendo, scatenati, eccetera. Tanto che veniva, abbiamo visto, questo fa un po' sorridere, una tipa francese che veniva là, abbiamo messo un gruppo francese di hip hop, il gruppo Hocus Pocus, e veniva là ogni volta in francese, mezzo italiano, mezzo francese, io li conosco, io li conosco, sono del mio, questo è il mio paese, cose del genere, così. E c'era un tipo là sotto che tipo gli stigava, ma stai zitta, ma che cazzo vuoi, con tutto, cioè proprio cose, insomma, un po' di sproloqui, e insomma lì c'era su di tutto, e noi, vabbè, no, tranquillo, dai, vabbè, dicevamo, scusa, stiamo finendo, lasciali lavorare, così noi finiamo questa bellissima serata, così, e poi facciamo la nostra amica, diciamo, ma scusami, sta tipa qui chi è, non so chi, cosa mi rappresenta, cioè, ma il tipo lì che le diceva di tutto, ah no, guarda, è sua amorosa. Però insomma è stata una serata sicuramente bella, che spereremo di rifare, chi lo sa come andrà, insomma, comunque è molto bello. In questi anni di radio, a noi qualcuno ci ha mai detto lasciali lavorare? No, hanno detto lasciali chiudere. Esatto. Aspetta che finiscano. Lasciali morire. Anzi, dai che tu giri le chiavi in P, quando esci chissà che non vadano fuori da quegli studi. Ci dicevate che alla fine c'è anche chi vi ascolta e capisce quello che mettete su, e che se andiamo a ascoltarvi io e Al non abbiamo la minima cognizione. È difficile trovarne di persone su questo genere? Ma guarda, secondo me non è un discorso di settorializzazione, perché non è come magari andare ad ascoltare, per dirti, jazz, uno pensa deve essere così, ma secondo me nemmeno quello. È un discorso di sentimento, di groove, io lo chiamerei proprio. Adesso purtroppo siamo tutti molto settorializzati, no? Uno che va in discoteca vuole sentirsi quel tipo di musica, va in un locale, quel tipo di musica, per cercare questa musica un po' alternativa devi andare per forza a un concerto chissà dove o in chissà che posti, mentre secondo me la gente ha bisogno di altro tipo di musica, perché non è impossibile da capire, cioè l'hip hop è semplice, nasce dalle strade, nasce dal ghetto, non è una musica da intellettuali o da chissà che gente straniata, o chissà che, una volta si andava in giro andavano in giro in America, sopra il braccio, no? La gente secondo me ha bisogno e apprezza, proprio perché è una musica che ti fa muovere, no? Quindi secondo me è proprio per questo che bisogna trasmettere. Andiamo un po' alle origini e ci ascoltiamo A Tribe Called Quest. Volete raccontarci qualcosa di loro? Perché insomma non è un nome poco noto, no? È una delle cose che qualcosa potrei dire, diceva giustamente, cioè influenze tra jazz e hip hop, e questi mi pare che ne sappiano qualcosa, secondo me. Sì, di influenze ne sanno parecchio. Ne sanno parecchio perché sono un gruppo che, come loro, anche i De La Soul e anche altri, hanno iniziato a staccarsi dall'hip hop più, tra virgolette, commerciale, perché non è che volevo... Però insomma, dall'hip hop più classico, cercando degli influssi con il soul, degli influssi col jazz, tanto che insomma gli A Tribe Called Quest su questo hanno molto puntato, no? Alcuni pezzi li fanno addirittura con contrabbasso, musica dal vivo, quindi sicuramente musica, un hip hop che insomma ha preso una sua strada, si è ampliato, ci sono stati tanti gruppi che hanno seguito, anche loro gli A Tribe Called Quest, poi hanno continuato a fare questa musica. Questo pezzo, Stressed Out, è un po' meno del loro repertorio, un po' meno con questi influssi jazz così, ma sicuramente è un pezzo molto bello. D'altronde, se l'hanno scelto loro e non noi, ci sarà pure un motivo. Esatto, altrimenti, cioè, se eravamo noi, sceglieva una scatola di pelati e ve la spedivamo a casa. E cioè, we call quest Stressed Out. Complain, but there's things in the game. What's your name? Consequence, I'm tight, burnt like flames. And why's that? American dream, they got this ghetto kid in the fiend. Don't stress that, cause it's not in your bloodstream. Your whole being comes from greatness, you remember. Chase Hall got you caught in the storms of December. And brothers on the block packing nines like September. Change the situation, check your pockets all slender. Yo, I be on the avenue where they be acting brand new. I'm flooding on these Reebok joints for shorty boo. All of a sudden, I saw these two kids fronting. Talking out their joints, but they wasn't saying nothing. My hand was on my coolie, they was acting unruly. Say word. Yo, word up, yo, I was tight, caught up. But I swallowed my pride to let that nonsense ride. Because the positive, it seems that negative died. Yeah, we was at the dice game, making these cats look silly. Slamming, steady running off at the willy. I had my cash mixed, my rent loop with my play dough. I gotta see so loose, so all my girls I blow. Took those shits in my palm, let them hit the flow. Kept my eyeballs scoping for them pigs popo. I got to go on the app, see my parole by four. But I gotta steady freak these boys like JoJo. And I was doing it till I met Ice Spike and Mike. One road, they had my pockets thirstier than Sprite. Yo, I know the feeling when you feeling like you're feeling. You be having good thoughts, but the evils be revealing. And the stresses of life can take you off the right path. Yeah. Jealousy and envy tends to infiltrate your staff. We gotta hold it there so we can move on past all adversities so we can get through fast. I really know how W-O. Low cash flow. Your baby's on the way. And you don't know who. And Crosstown niggas tryna bust at you. Ayo, they got me stressed out. And you don't know what to do. So frame this Kodak black. If it just do my contacts with a poultry scrap. Workers get pistol smacked. The switch hitting Queens niggas liquid sauce spitting. We're raw puppies. And now your first love is thrills. Your vision of the mills got crushed like hey lover. Try to rise to the top. You just couldn't recover. And all I want is my laceration of the pie. To get this whipped cream before the water runs dry. Niggas flat dancing. Yo, I don't know why. Your chicken snitching. She got your cruising to the pokey like Smokey. The stuff you trying to 3 second homie. Well, I be trying to get star status like Shinobi. So we can build a dynasty just like the Kobe. And all I want is the world to know my Steve. These money hungry niggas is 7:30. And got me stressed out like these frog MCs. I really know how it feels. Gonna make it. Stressed Out dei A Tribe Called Quest. Siamo rientrati. Music for You for Sherwood 97.8 San Donà 102.2. Sarebbe il tempo dei contatti, Favotto, se riusciamo a farli in velocità. Me li sviolloncelli? 0421560993. Opzione A è il telefono. Opzione B è il fax per insultarci. Esatto. Opzione C è la mail. Sì, ma devi dire qual è il fax. 0421 5 0994. Esatto, bravissimo. E poi invece la mail è radiochiocciola@radiosandona.it. Blog musicforyouth.wordpress.com per questa puntata in podcast, come tutte le altre, eppure in streaming. Altrimenti sul sito di Sherwood c'è la nostra paginetta riservata. Non hackeratela per cortesia, fa già schifo di suo. Non aggiungeteci scritte glitterate e tutto il resto. Lasciate liberi i Dead Horse di esprimersi. Sono nostri ospiti codesta sera in questa puntata e ci hanno portato Puriron di Big L, che è collegata a una traccia che abbiamo già messo prima. Ricordatemi, esatto, il perché, perché io non lo so. Allora, all'inizio di Full Clip di Get the Gang Star, la prima canzone che è stata messa, c'è una dedica da parte di Guru, che è uno di Gang Star, appunto, a Big L, che appunto era morto, che è morto, e appunto gli hanno fatto questa. Tu dici, Favotto, è morto cadendo da cavallo? Assolutamente. Gli è arrivata una pallina, no, da golf in gola? No, ovviamente è morto sparato. No, e infatti nella scena hip hop va di moda morire, esatto, sparati. Cioè, c'è gente che al giovedì sera gioca a calcetto, c'è gente che invece gira per le strade e si spistola. Crivellare di professione e gambizzare. Pure il fratello, esatto, di sto pacioccone qua, ha fatto la stessa identica fine. Mentre era lì che cincionava, andiamo a vedere dove la strada dove è morto mio fratello, andiamo a indagare. Plef, morto per terra pure quello. Eh sì. Questo vuol dire che c'erano dei cecchini? No, quella che la strada portava un po' a spiga. Vagamente. Puriron è il pezzo che presentiamo. Perché me lo scegliete? Potete anche non avere motivazioni. No, motivazioni ce ne sono. A parte appunto per ricollegarci al filone newyorkese con cui abbiamo aperto, il filone è abbastanza crudo, con base molto, molto secca, senza eccessivi suoni, senza eccessivi campionamenti. Big L si colloca appunto in pieni anni 90, quindi nella piena Golden Age americana. E niente, questo pezzo a nostro avviso è spettacolare. E quindi è il caso di dire, mettilo su Music for Youth. Esatto. Your head flown three blocks, L keep rappers' hearts pumping like beatbox. And every day I gain clout and my name sprouts. Some brothers will still be virgins, the crap never came out. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom boom and your guns go pow pow. I'm known to have a hottie open, I keep the shoddy smoking. Front and get half the bones in your body broken. And when it comes to getting nookie, I'm not a rookie. I got girls that make that chick Toni Braxton look like Whoopi. I run with 30 clicks, I'm never hitting dirty chicks. Got 35 bodies, buddy, don't make it 36. Step to this, your good is gone, word is born. I leave mics torn when I put it on. So put it on, Big L, put it on. Got a mouth full of horse teeth. I'm known to gas a hottie and blast the shoddy. Got more cash than Gotti. You don't know? You better ask somebody. Big L is a crazy brother, and I'm a lady lover. A smooth kid that'll run up in your baby mother. I push a slick bins. I'm known to hit skins and get ends and commit sins with sick friends. Cause I'm a money getter, also a honey hitter. You think you nice as me? Haha, use a funny nigga. I flows, so one of my shows wouldn't be clever to miss. I'm leaving competitors pissed to tell you the truth. It gets no better than this. I'm catching wreck to the break of dawn. In this song, yo, it's a must that I put it on. Yeah, so put it on, Big L, put it on. I see you when I get there, and it's the fact I keep a gat in my like cornbread. You can't kill me, I was born dead. And I'm known to pull steel tricks and kill pigs. I run with ill kids and real niggas who peel wigs. My rap's steady slamming, I keep a heavy cannon. It's a new sheriff in town and it ain't Reggie Hammond. Peace to my peoples, the children of the dawn. Cause we put it on, adios, ghosts, I'm gone. So put it on, Big Al, put it on. Il morto ha parlato, Big L, Puri Ron. Siamo rientrati in studio Music for Youth e passiamo a un altro pezzo magistralmente portato a mano. Qual è il numero del morto che parla? Sai che non lo so minimamente, non chiedermelo, cioè, ti prego, non mettermi in difficoltà. 4 italiani su 4 non sanno il numero del morto che parla. E ci sarà un motivo per cui Lotto va a Remengo, i Gratta e Vinci spopolano. E passiamo a chi dobbiamo passare, signore? I Della Soul, mi pare? Sì. O sto dicendo boiate? Sì, no, sì. No, passiamo ai Della Soul. Me stesso e io, questo è il pezzo scelto, Me, Myself and I. Questi buoni Della Soul, capofila di Native Tongue Posse, movimento politico musicale composto da diversi artisti afroamericani. Se non lo sapete, ora lo sapete. Questi sono quelli di Three is a Magic Number. Esattamente. Oh, bravo. Dello stesso CD anche proprio. Momento in cui so qualcosa. L'hanno coverizzata, ti ricordi quelli Dancing in the Moonlight di Top Loader? Esattamente. O l'hanno rifatta pure loro, cioè, è vero. Cioè, a cani e porci viene data questa traccia. Avete parlato di Della Soul, ora dovete giustificare il perché. Giustifichiamo perché, beh, si ritrovano sempre in sto filone un po' alternative. È molto allegra la canzone, no? Pur non essendo, chissà, Mary West Coast, quelle un po' tranquillone così, però è molto allegra. E è un pezzo molto bello, ha una bella base sicuramente. E loro sono particolari, infatti... Il CD è lo stesso di Freeza Magic Number, sono tutti fiorellini, così un po', sembra quasi hippie, 89, molto bello. Questi qui per la prima volta si sono presi una sentenza e hanno dovuto pagare fior fior di soldi, perché è il primo caso in cui un campionamento è stato denunciato all'autore originale e loro hanno dovuto risarcire tutto quanto. Poveretti. Così, vedi che Ashcroft di Verve... E avevano campionato Raimondo Vianello. No, non chiedermi che cosa, anzi forse te lo so dire. Sì, nella canzone è You Show Me in Transmitting Live from Mars di un non so chi. Basta, queste sono le informazioni che ho. Comunque il non so chi gli è girato perché... Gli sono girate le pelotas basche e li ha denunciati e sta a prendere ancora i soldi a quella volta lì. Me, Myself and I, Della Soul. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise. and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory, four plugs, one and two. But that glory's been denied by cassids and gookie eyes. Think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Della Soul, Me, Myself and I, Music for Youth in corso di conclusione, anzi che in corso è arrivato, in corso d'opera, binario morto per noi anche questa settimana. Ci andiamo a schiantare contro una palata qualsiasi e a braccia aperte, fa voto, visto che a te va sempre bene. Sì sì, no, io apprezzo soprattutto il suono del merci, che non so quale sia, però l'importante è che sia sulla tua testa. Stiamo chiudendo la puntata, sono stati ospiti con noi in questa bella oretta nella quale abbiamo parlato qualcosa di hip hop golden age, si definisce così, non l'ho dimenticata, i Dead Horse, che ringraziamo. Ringraziamo tantissimo, perché e siamo stati veramente molto onorati, e soprattutto state colmando della grossa ignoranza. Gli onorè, come i dolci, esatto, come cacchio che si chiamano. Santo onorè. Esatto, la santo onorè. Siamo più noi a ringraziare voi, che almeno ci movimentiamo un po' in... Che muovete quelle panciotte, non ancora la prova costume, no? Beh, uno è troppo magro. Diamo i contatti? Avete un contatto? Contatti Facebook, c'è il gruppo Dead Horse. Siamo gli unici che ci chiamiamo così, grazie a Dio, su Facebook. Anche noi abbiamo un gruppo veramente inutile, non ce lo può copiare nessuno. Che Music for You for Air, se lo copi sei veramente una persona a due soldi. Ma pensa che tristezza. Musica per giovani in aria, sì, condotta da due pensionati assoluti. Chiudiamo questa puntata con un maestro, uno che è riuscito a fare più soldi da morto che da vivo, ma sicuro, e anche più album da morto che da vivo, e anche un iniziatore di un uso originale della bandana, secondo me. Esatto. To Live and Die in LA, e questo è il meraviglioso Tupac, meraviglioso, per carità, dipende dalle qualità estetiche che gli addossate, i vostri canoni altrettanto estetici. Mandateci qualcosa di Tupac se avete voglia, altrimenti mandateci Remengo e noi saremo contenti uguale. Tupac è stato uno, cioè il principale esponente della musica hip hop per quanto riguarda l'ambito di Los Angeles, molto legato alla sua città, quindi in ogni pezzo, in quasi tutti i pezzi comunque si può riferimento sia per esaltare la sua città, sia per dar contro ai New Yorkesi, soprattutto a Notorious B.I.G. con cui era in faida, che poi è finita come è finita, insomma. Qualcuno ha vinto e potrei anche azzardare chi. Esatto. Questo pezzo è un pezzo, uno dei pezzi a nostro avviso più belli, anche abbastanza famoso. Siamo a posto così, stavolta è stato un piacere. Anche per me in qualche modo. Ci aggiorniamo la prossima settimana, purtroppo. Sì. Purtroppo di sì. No, purtroppo per gli ascoltatori, per noi voglio dire, è solo dare aria alla bocca per un'altra ora. Ci viene sempre molto bene, da ormai a due anni e passa. Ringraziamo i Dead Horse. Grazie a voi. Ci sentiamo presto. To Live and Die in LA. Tupac. Street Science, you're on the air. What do you feel when you hear a record like Tupac's new one? I love Tupac's new record. Right, but don't you feel like that creates tension between East and West? He's talking about killing people. I had sex with your wife, and not in those words. But he's talking about, I want to see you deceased. Look down to live and die in L.A., California. What you say about Los Angeles? Still the only place for me that never rains. To live and die in L.A., where every day we try to fatten our pockets. Us niggas hustle for the cash, so it's hard to knock. Everybody got their own thing coming, see chasing worldwide through the hard times, worrying faces. Shed tears as we bury niggas close to heart. What was a friend, now a ghost in the dark. Cold part about it, nigga got smoked by a fiend. Try to floss on him, blind to a broken man's dream. A hard lesson, court cases keep him guessing. Plea bargain ain't an option now, so I'm stressing. Cost me more to be free than a life in the pen. Making money off of cuss words, writing again. Learn how to think ahead, so I fight with my pen. Late night, down sunset, liking the sin. What's the worst they can do to a nigga? Got me lost in hell to live and die in the lake on bears with my ass. To be that, to know it, when everybody wanna see. Central LA. Can't get no stranger. Full of drama like a soap opera. On the curb watching the ghetto bird helicopters. I observe so many niggas getting three strikes off from jail. Swear to pin right across from hell. I can't cry cause it's home now. I'm just a nigga on his own now. Living life thug style. So I can't smile right into my peoples when they ask for pictures. Thinking Cali just fun and bitches. Better learn about the dress code, B's and C's. All them other niggas copycats, these is G's. I love Cali like I love women. Cause every nigga in LA got a little bit of thug in him. We might fight amongst each other, but I promise you this, we'll burn this bitch down, get us pissed. To live and die in LA.